Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Aprì la porta e mi si spalancò davanti il disastro. Oggetti, mobili, suppellettili, sedie, abiti, libri, penne, matite, taccuini, tutto. Tutto era scraventato per terra. Schizzato a casaccio in qualche angolo, nel centro della stanza, sul terrazzo, in cucina, come in una discarica, ma di oggetti ancora belli, ancora preziosi, ancora vivi, come se fosse passato un uragano. Ciao, mi chiamo Anna, collaboro con l'università e adoro il cinema. Ecco, mi piacerebbe veramente sapere quanti delle persone che sono all'ascolto, ma anche nel mondo, facciamo in Italia, sanno che santo è oggi. Oggi è il 27 di dicembre e tutti sanno che santo è il 26, che è Santo Stefano, e ben pochi sanno che santo è oggi. Manco io lo sapevo, semplicemente l'ho chiesto a Stefania e ho scoperto che oggi è San Giovanni Apostolo e qualcos'altro, però evangelista, apostolo evangelista. Vabbè, per forza, perché l'evangelista è l'apostolo, giusto? 12 apostoli, 4 evangelisti della serie. Ho fatto il seminario in giovane età e oggi è San Giovanni Apostolo, ma nessuno se lo ricorda che è San Giovanni Apostolo, perché è il 27 di dicembre. Oggi si parla di ricorrenze particolari, che non sono le ricorrenze legate al calendario vero e proprio, al calendario assoluto, al calendario pubblico, diciamo, ma sono quelle legate al calendario privato. Oggi è la storia di un episodio molto particolare, accaduto nella vita di Anna. È accaduto in un giorno che è proprio il giorno di Santo Stefano, che non è Natale, però è quasi, cioè insomma, se ti succede una cosa brutta nelle feste di Natale non è mai troppo bello e probabilmente quei giorni vorresti cancellarli dal tuo calendario. Ecco, oggi facciamo l'operazione esattamente opposta, i giorni che invece noi vorremmo ricordare nel nostro calendario, perché in qualche modo ci appartengono più degli altri, più delle feste comandate. Vi faccio un esempio, Chiara: il mio personale calendario inizia il 13 maggio del 2003, quando ho scoperto che la persona che amavo non mi amava più. È iniziata una nuova vita di cui sono felicissima. Il 13 maggio del 2003 è il mio anno zero e lo festeggio ogni volta con un bicchiere di prosecco. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it, ma c'è anche il profilo Facebook del programma, che è sempre quello, che è Matteo Caccia e io sono qui. Emanuele: festeggio sempre il giorno in cui mi sono rotto un dente a 8 anni. Non ci sarebbe nessun motivo se non quello che usò mia nonna per non farmi pensare al dolore. Era un martedì, era l'8 giugno del 1968 e da allora ogni 8 di giugno non faccio nulla di particolare, ma mi viene in mente che quella è una ricorrenza. Ecco, in realtà Emanuele qui si parla proprio di festeggiare delle ricorrenze. 349-238-6666. Chi è che ha inventato questo calendario? Mi chiedono gli arabi, credo. Non gli arabi, la sto dicendo. Però abbiamo la fortuna di avere un computer in studio e quindi è il calendario che abbiamo oggi, è il calendario gregoriano, eccolo qua. Il calendario gregoriano prende il nome da Papa Gregorio XIII, che lo introdusse nel 1582 con una bolla papale. Vabbè, le robe interessanti poi ve le dico dopo. 349-238-6666. Gianni: il 4 di gennaio per me è il Danilo Day. 6 anni fa il mio amico Danilo si è risvegliato dopo un coma di 10 giorni per un incidente. Ogni 4 di gennaio con altri 6 amici andiamo ad ubriacarci con lui e lo pigliamo per il culo tutta la sera, visto che l'incidente era stato stupido e lui aveva fatto tutto da solo. Ecco, guarda, esattamente, pensavo esattamente a giorni del calendario come questi. 349-238-6666. Ci sono giorni invece in cui, come è successo probabilmente per Anna, quei giorni si vorrebbero cancellare dal calendario, anche se è il 26 di dicembre. Se ritorno a quei fatti, ho in mente l'immagine di un inverno grigio fuori dalla finestra e di una me stessa molto piccola, una bambina. E per quanto la storia mi dica il contrario, non posso fare a meno di ricordare quella sera così. In realtà era la sera di Santo Stefano, di quelle sere perfette, con la neve che cade ma non si ferma, col silenzio e la pace delle feste. E in realtà avevo quasi 21 anni. Ero in camera, non so fare che cosa. Sentii il rumore del citofono, alla porta, in sala. Sentii mia madre che andava ad aprire. Sentii parlottare, ma non riuscii a distinguere i suoni. Qualche scambio soffocato, poi la porta che si richiudeva. E poi nulla. Ricordo di avere provato una sensazione di panico, di pericolo, Qualcosa mi tratteneva dal muovermi. Come un macigno mi pesava sulle spalle. Restai lì cercando di dimenticare l'ansia per non so quanto tempo. Un'ora, due ore, forse anche più. Poi, quasi come se avessi capito che finalmente potevo, mi alzai e andai di là, verso la casa di mio fratello. Lui abitava nell'appartamento adiacente al nostro, tanto che di fatto li consideravamo due ali della stessa casa. Se c'era, mio fratello mangiava con noi. A volte lo usavo anche io il suo appartamento, per dormire con le amiche o altro. Praticamente era come un'unica abitazione con in mezzo un ballatoio. Aprii la porta. Mi si spalancò davanti il disastro. Oggetti, mobili, suppellettili, sedie, abiti, libri, penne, matite, taccuini, tutto. Tutto era scravantato per terra, schizzato a casaccio in qualche angolo, o nel centro della stanza, o sul terrazzo, o in cucina. Come in una discarica, ma di oggetti ancora belli, ancora preziosi, ancora vivi. Come se fosse passato un uragano. Io avevo sia la sensazione che mio fratello si comportasse in maniera strana, ce l'avevamo tutti, perché banalmente gli giravano troppi soldi, fondamentalmente. Lo specifico frangente era come veramente se fosse passato un uragano, e che cosa fai? Non puoi farci niente, ti rovina la vita e basta. Mia madre era seduta su una sedia, piangeva, e mia madre non piange mai. Mio fratello lì non c'era. Era stato arrestato. Anzi no, era stato arrestato il giorno di Santo Stefano. In quel buco temporale che avevo passato nella mia stanza, i carabinieri avevano perquisito tutto, perché lui non voleva rispondere a nessuna domanda. Sembrava un film, tutto puzzava di già visto, di straordinariamente banale se ci ripenso. Forse perché in quel momento io non c'ero e non so immaginarlo ammanettato, con la faccia dura. Ci mettemmo giorni a riordinare tutto, io e mia madre. Mia madre, mentre riordinavamo, si lamentava del casino, di quello provocato dai carabinieri e di quello provocato da mio fratello. Parlava, parlava e parlava. La parola che ho sentito dire più volte era cretino. Ma credo che in qualche modo quella cosa ci avesse sollevato. Per tutto l'anno precedente nell'aria incombeva la sensazione asfissiante dell'incertezza. Sapevamo che stava combinando qualcosa, ma non riuscivamo a capire cosa. Quella sera ogni dubbio, ogni sospetto, ogni lite nevrotica furono spazzati via. Sapevamo finalmente. In qualche modo era una buona notizia, ed era per questo che faceva male. Non è tanto una questione di perdono, perdonare perdoni, manca la fiducia. Ecco, quindi sì, quello è cambiato. È difficile poi fidarsi di una persona, è impossibile forse, almeno nel mio caso. Quindi io non mi fido più. Premetto che la mia è una famiglia molto atipica, questo non ha aiutato, anzi ha peggiorato molto. Adesso le cose vanno molto meglio, negli ultimi 2-3 anni devo dire che vanno molto meglio. Ci misi tutta la primavera e un pezzo di estate prima di decidere di andare a trovarla in carcere. Niente di davvero lucido o di premeditato. Semplicemente riempì il tempo di vacanze, di passatempi, di ragazzi. E tutto per dimenticare che c'era. Ma d'altronde non potevo farlo. Per quanto fosse un cretino, per quanto sembrasse uscito da un pessimo film di quelli con Steven Seagal che fa il buono, era mio fratello. E questo bastava. Nel film Traffic di Steven Soderbergh c'è un personaggio che mi ha colpito più degli altri. È quello di Michael Douglas. Lui cerca di combattere il traffico di droga tra il Messico e gli Stati Uniti proprio mentre sua figlia si fa di eroina. E alla fine del film, durante la conferenza stampa, quella che celebra il suo successo professionale, lui rinuncia all'incarico e dice una frase. La frase è questa qui: se c'è una guerra alla droga e i tuoi stessi familiari sono diventati il nemico, come puoi dichiarare guerra alla tua famiglia? Ecco, questa è la stessa domanda che mi sono fatta. La tua famiglia non smette mai di esserlo, anche quando ti trascina nel caos. Non ho mai pensato che la famiglia sia per forza il porto sicuro a cui rivolgersi. Sarebbe bello, ma a volte è la tua famiglia il mare in tempesta. Eppure è sempre la tua famiglia e non puoi fare a meno di tuffartici. Oh. Non sarò certo io a dire l'ennesima banalità su come la vita a volte ti presenti dei conti che non pensavi nemmeno di avere in sospeso, o su come sia meravigliosa e crudele. Queste sono tutte cose già dette, che sono tutte vere, sono tutte false, dipende dalla vita che ognuno di noi sta vivendo, più o meno. Di certo però c'è che se ti succede qualcosa di brutto durante le feste, è peggio. È come essere svegliato in piena notte per scappare dalla casa in fiamme. Stona di più che se il fuoco avesse preso durante il giorno, ad esempio. Perché di giorno sei attivo, sei pronto a tutto, perfino alle fiamme. Ma quando dormi, quando ti riposi, quando festeggi, il giorno di Santo Stefano, sei in modalità pilota automatico, sei come nell'intervallo della partita. E nell'intervallo della partita non si prendono gol e neanche si viene espulsi. A Santo Stefano di solito ci si riprende dalle buffate del Natale, ci si rilassa dopo i festeggiamenti, si godono i regali, si va al cinema, si passeggia con le ciaspole nella neve se sei in montagna, oppure si sta in casa e si leggono dei buoni libri. Nel giorno di Santo Stefano non possono succedere cose brutte. Ed è per questo che quando capitano, di solito fanno più male. In realtà il lato positivo di questo discorso è che se invece c'è una bella novità e ti capita proprio in un giorno di quelli, che sono tutti uguali, o magari perfino in uno peggiore degli altri, allora è come se si accendesse la luce in una stanza buia. Come se dopo la puzza arrivasse un profumo di pulito, avete presente, no? Come una mano che ti accarezza i capelli, ad esempio. Insomma, per farla breve, è molto bello. Ecco, allora io vorrei proporre a tutti una cosa che sto progettando di fare un po' per me stesso. Ci si potrebbe costruire una specie di calendario personale, che magari qualcuno ce l'ha già, però proprio disegnarlo. Cioè non voglio cambiare le date o i mesi, solo le festività. E su quel calendario ognuno segnalerà le proprie giornate particolari, le proprie ricorrenze significative, che possono essere anche compleanni o matrimoni, ma anche no. Così c'è più spazio per quelle piccole e grandi cose che vi hanno cambiato l'esistenza in meglio, o che sono stati dei giorni memorabili da celebrare ogni anno. E ce ne possono essere 2, 10, 20, anche 100, chi se ne frega. Ognuno potrà decidere per sé tutto quello che vorrà, tanto nessuno verrà a controllare. Perché secondo me, più che quelle comandate, bisognerebbe festeggiare le vere feste della nostra vita. E allora potreste celebrare, che so, quel 20 di febbraio in cui vostro figlio ha preso il suo primo 7 in matematica, che voi in matematica eravate sempre stati rimandati. Oppure, che ne so, quando vi siete tolti quel neo che non avevate retto nessuno, che lo andavate a fare, poi però è andata bene. O quando il vostro cantante preferito ha autografato la vostra maglietta al concerto. Potete scegliere qualsiasi evento. Sarà sempre speciale, ogni anno, se sarà gigantesco la prima volta. E allora eccomi qui. Io adesso sono alle prese con una lista, e mi piace fare le liste, una lista dove inserire le mie feste personali. E alla fine mi serve anche vedere la mia vita a ritroso, scartando le cose brutte, che tanto quelle si ricordano sempre troppo bene, lasciando invece gli eventi memorabili, quelli che io voglio ricordare. Come quella finale del torneo di calcetto, quella vinta ai supplementari, era il maggio del 2002, era il 4 maggio del 2002. O quando ho ritirato il primo esame del sangue dopo 10 anni che non ne facevo e non c'era nemmeno un asterisco. Ma pure il giorno in cui ho vinto 500 euro al Grattevinci. O quando ho dormito per la prima volta nella mia nuova casa, da solo. E la lista è sempre più lunga di quanto pensavamo. La mia però non ve la racconto tutta. Voglio però ricordarmi sempre di santificare le mie feste. Ammetto che io un pochettino l'ho fatto apposta, anzi, non un pochettino, l'ho fatto decisamente apposta. In questi giorni che sono tra le feste, prima o dopo Natale, Capodanno, si tende sempre ad affrontare degli argomenti natalizi. Credo che ci sia nulla di peggio che la definizione natalizi per parlare di un argomento, anche perché poi qual è l'argomento natalizio? Il panettone, più o meno i regali. E quando abbiamo letto questa storia tutti insieme, io, Tiziano, Stefano, abbiamo avuto la sensazione, vabbè, un po' perché questa cosa è accaduta in un giorno di Santo Stefano, ma perché avevamo proprio voglia di raccontare una cosa densa in questi giorni, per far finta che le cose succedono solo tra fino al 23 di dicembre e dopo il 6 di gennaio. Le cose succedono anche in queste due settimane e quindi, visto che siamo qua a raccontare delle storie, ci andava di farlo. Pronto, Anna? Pronto. Ciao, come stai? Bene, abbastanza, dai, freddo. Come è nato il tuo Natale? Come è andato? Sì. Benissimo, l'ho fatto dai miei suoceri, con i miei genitori e il mio fratello. Senti, tu sei sposata quindi, Anna? Sono sposata. Sì. Hai figli o cose del genere, quelle cose che si fanno quando ci si sposa? Visto che è Natale lungi da me, non ne ho nessuna intenzione. Da quant'è che sei sposata? Quasi, sono 4 anni e mezzo. Ma scusa, quanti anni hai? Una voce giovanissima, Anna. Ah, grazie, però ne ho 32. Ah, ma come però ne ho 32? Sembrava dicessi però ne ho 52. Allora dico che ne ho 52. Ne hai 32, ma hai la voce di una 22enne. E sei, mi dicevi, e si sente un pochettino della provincia di Brescia. Abbastanza. Sei abbastanza della provincia di Brescia. Abbastanza. Senti, l'hai fatto anche con tuo fratello questo Natale, quindi comunque vi frequentate, vi vedete? Sì, assolutamente. No, per quello figuriamoci. Poi mi è nata la nipotina 3 anni fa, quindi... Quindi lui ha una famiglia, sta... Cioè si parla, perdonami, perché sicuramente me l'hai raccontato nella tua storia, di quanti anni fa? Di quanti anni fa? 2001. 2001, quindi 10 anni fa secchi. 10 anni fa secchi. Senti, tu prima, quando raccontavi durante il racconto con la tua voce, dicevi che siete una famiglia tipica. Sì. Cosa vuol dire esattamente famiglia tipica? Allora, considera che io vivo in un paese, per cui già il fatto che mia mamma fosse divorziata dal papà di mio fratello e stesse con mio padre è già una roba. Ah, ok, quindi... accidentale. Quindi diciamo, tu e tuo fratello non avete lo stesso papà? Non abbiamo lo stesso papà, no? Ok. E infatti devo dire che ho ovviamente utilizzato lo stratagemma di sfruttare il fatto che non abbiamo lo stesso cognome per un po' per far finta di non conoscerlo, perché mi vergognavo un po'. Uh-huh. E poi siamo atipici perché, vabbè, mio padre è un po' strambo. Cosa vuol dire? Perdonami. Cosa vuol dire un po' strambo? È quello che conosce tutti nel paese... Va in giro vestito, sembra uno squatter, solo che vabbè, uno squatter di 60 anni. E cosa fa? Perdonami, cosa fa o cosa faceva tuo papà nella vita? Insegnava informatica alle elementari, adesso è in pensione. E si vestiva come uno squatter anche alle elementari? Sì, di brutto. Senti, invece la tua famiglia, la tua nuova famiglia, cioè tu e tuo marito, siete più o meno regolari o...? Sì, regolarissimi, ho cercato in tutti i modi di entrare nei binari più biechi banalmente. Giustamente per reazione, no? Nel senso che quando hai dei genitori squatter, poi nella vita cerchi di fare l'impiegato più o meno e ti vesti in camicia. Senti, tu mi dicevi che collabori con l'università, cosa fai esattamente? Io sono cultore della materia. I cultori della materia, fammi capire, sono quelli che non prendono una lira oppure qualcosa... Oh beh, aspetta, non prendono una lira, qualche lira la prendo. Qualche lira la prendono, no. Però tipo da qui alla settimana prossima, poi quella dopo si vedrà. Esatto. In che cosa esattamente, Anna? Storia della radio e della televisione. Ah, ma sei un'esperta. Ma senti, all'università di? Brescia, cattolica. Che è la stessa di Milano, no, la cattolica di Brescia, l'università cattolica di Brescia. Sì, però fa sempre capo... al medesimo mondo. Ah, ok, semplicemente un distaccamento. Senti, ma hai fatto esami di recente, prima di Natale o... No, ho fatto un paio di lezioni. Su che cosa? Fiction e talent show. Io la tesi l'avevo fatta sui talent show e quindi... Ma talent show televisivi però? Talent show televisivi, okay. Sì. Ok. Senti, quando abbiamo i prossimi esami oppure la prossima lezione? Allora, gli esami sono a gennaio. e non so, dipende, poi vediamo come vanno le vacanze, a quel punto vedrò che voti dare, non sto scherzando, però sì, saranno a gennaio. E tu sei una che boccia oppure no? Sono, diciamo che io studiavo tantissimo, per cui pretendo che si studi, ecco. Anna, senti, io ti ringrazio moltissimo per il racconto, per la chiacchiera e per tutto il resto. E ti auguro un buon 2012 che verrà. Buon 2012 a tutti. Grazie mille. Ciao Anna, buona giornata. Ciao. Voi siete qui. Anna ha voluto mantenere un certo riserbo e anche un certo anonimato, quindi non ci ha chiesto se poteva non mandarci la foto, e noi ovviamente gli abbiamo detto di sì, perché non c'è una legge a proposito. Però io, quando ho letto il racconto di Anna, me la sono immaginata in un certo modo, e non me la sono immaginata oggi a più di 30 anni, me la sono immaginata a 20, 21, esattamente in quel giorno di Santo Stefano, seduta sul suo letto, con i capelli biondi, lisci, gli occhi chiari e la pelle candida. 349-238-6666, questo per dire che se andate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, non trovate la foto di Anna, però andateci perché trovate tutto il resto, trovate i brani che mandiamo in onda, trovate la mappa con tutti i puntini che abbiamo segnato fino ad oggi con i racconti degli ascoltatori di questo programma e di Radio 24 e non solo, e trovate anche il podcast di questo programma che potete scaricare lì, ma anche su iTunes gratuitamente in forma di abbonamento. Mi è arrivato un messaggio, dov'era? Eccolo qua, Pierpaolo, questo è veramente un grande. Pierpaolo, io festeggio sempre il mio finto compleanno. Qualche anno fa, per conquistare una ragazza, feci finta di compiere gli anni il suo stesso giorno, il 12 ottobre. Guarda, l'ho usata anch'io una volta questa tattica, che era tipo, quando è che compi gli anni? Il 23 settembre. Ma è incredibile, anch'io. Però non mi aveva creduto. Lui invece, il giorno era il 12 ottobre. Non funzionò, ma da allora, il 12 ottobre, stappo una bottiglia di spumante in nome della mia creatività seduttiva. Pierpaolo, sei un genio. Tu e la tua creatività seduttiva. Tra l'altro, questa roba qua mi fa venire in mente, c'è un pezzo di Alice nel Paese delle Meraviglie in cui credo lei col cappellaio matto festeggiano il non compleanno, mi pare. Vabbè, una roba del genere. Vabbè, se lo trovate andate su Facebook e lo caricate sul profilo del programma Matteo Caccia, Voi Siete Qui. E poi ancora un altro messaggio prima di andare oltre. Festeggio sempre il giorno in cui hanno licenziato il mio capo, va bene. Pasquale, da 2 anni a questa parte festeggio il 22 di maggio come fosse il Natale, giorno in cui, con 2 gol di Diego Milito, l'Inter ha vinto la sua Champions League. Matteo, so che mi può capire. E poco fa, veramente poco prima di andare in onda, mi è venuto in mente che, a proposito di ricorrenze che sono per lo più appunto personali, in alcuni casi familiari, come il messaggio che è arrivato in cui mi dicevano che c'è una famiglia che festeggia una sorta di cena dei cugini e la fanno sempre il 10 di dicembre di ogni anno, sono 40-50 cugini, ci sono delle ricorrenze, si può dire create, vai, facciamo così, non inventate, delle ricorrenze create da persone che di conseguenza sono particolarmente creative. Una di queste persone è un amico molto caro a cui devo molto. Non sto qui a raccontarvi quanto devo a lui, che prendiamo in prestito da un'altra radio di cui non faremo il nome, Radio 2, la trasmissione è Caterpillar. Lui è Marco Ardemagni. Pronto Marco? Buongiorno Matteo, Caterpillar AM. Beh, preciso. Ci teniamo, esatto. Perfetto, esatto. Giusto per non fare pubblicità e non parlare di altre radio in questa radio, giusto? Esatto. Beh, tu mi devi molte cose, ma non soldi. Al momento ancora no. Marco, però noi siamo qui, sì. Mica perché è il 27 di dicembre, peraltro voi non siete in onda in questi giorni, vero? Siete l'unica settimana di vacanza. Peccato, quindi i nostri ascoltatori non potranno alzarsi all'alba per ascoltarti, però l'idea è questa qua, Marco, è che tu, di fatto, una ricorrenza l'hai inventata da zero, giusto? Sì, ti riferisci, immagino, al 12 novembre, Zuava Day. Bravo, esatto. Aspetta, lo ripetiamo perché non è così immediato. Il 12 novembre è lo Zuava Day. Perché? Lo Zuava Day. L'abbiamo fatta per 4 anni. È un'iniziativa, diciamo, se vogliamo un po'... Io amo riferirlo alla scapigliatura milanese, un po' dadaista, un po' situazionista. Certo. Nel senso, noi il 12 di novembre... mettiamo i pantaloni alla zuava, perché è un capo desueto, un capo di nessun interesse commerciale, cioè non c'è nessuna ditta che vuole fare soldi con i pantaloni alla zuava, per ribadire semplicemente che non saremo mai come ci volete voi. Cioè questo di fatto è il motto fondante, giusto Marco? Cioè non saremo mai come ci volete voi, quindi ci mettiamo una roba che sostanzialmente fa cagare, cioè nel senso che... diciamo una cosa che non interessa a nessuno. Il tutto in un giorno assolutamente inutile. Abbiamo cercato così sul calendario una giornata che non fosse particolarmente significativa, il 12 novembre. Sì, ci sono delle... tanto vabbè, insomma, è anche la data dei morti di Nasseria, però l'abbiamo scoperto dopo. E anche la data di nascita di Neil Young, un cantante che mi piaceva molto da ragazzino. Però che fondamentalmente è una data abbastanza negletta. Sì. Quindi abbiamo scelto il 12 novembre, perché poi novembre è un mese un po' così deprimente con questi grigi. Allora abbiamo detto, questo giorno noi... ci vestiamo un po' così, velletariamente, per dare un segnale al mondo, i pantaloni e la zuava. Marco, scusa, quando dici noi, esattamente a chi ti riferisci? Ma fondamentalmente è un piccolo gruppo costituitosi appunto attorno a un po' a Radio 2, a degli amici di Senigallia, degli amici di Milano, e poi tanti ci hanno seguito tramite Facebook. Riusciamo a dare un numero degli aderenti, quelli che hanno aderito alla Zona D? Qualche centinaio di persone ogni anno, poi ci mandano le foto su Facebook, ma poi l'importante è sentirsi zuava dentro. Questo lo immagino. Senti, quindi l'idea è che il prossimo 12 novembre, adesso praticamente più di un anno, l'omologazione diciamo del pensiero, esatto, contro i jeans a vita bassa, se volete aderire allo Zuava Day, segnatevelo adesso sul vostro calendario, sulla vostra agenda, tanto 2 giorni fa Natale sicuramente vi è arrivata un'agenda, giusto? Vi segnate il 12 di novembre Zuava Day. Cosa bisogna fare esattamente, Marco Ardemagni? In qualsiasi momento della giornata, anche quando andate in posta, in banca, al lavoro, a prendere i figli a scuola, indossiate un paio di pantaloni alla zuava. Se ne trovano nei negozi di articoli sportivi. Sì, se ne trovano. Quelli che hanno l'attrezzatura da montagna. D'alpinismo, certo. Ad esempio, anche se oggi persino gli alpinisti li schifano i pantaloni alla zuava. Nessuno. Sì, no, non li usa più nessuno, ma è proprio per quello che noi li vogliamo. Forse appunto una ragione c'è, se non li usa più nessuno, e a maggior ragione c'è la ragione per cui noi li vogliamo. Marco, senti, io ti ringrazio moltissimo, ricordiamo il 12 novembre, Zuava Day, ricorrenza recentissima, abbiamo detto 2008, giusto? Sì, dal 2008. Grazie ancora, in bocca al lupo per Caterpillar AM e buon 2012. In bocca al lupo, voi siete qui. Ciao Marco, ciao, grazie. Matteo. Ciao. Un buon compleanno a te, a me, e a te, a me. Brindiamo tutti insieme con un altro po' di te e tanti tanti auguri. Era esattamente questo il pezzo di cui parlavo prima del non compleanno. Ringrazio Tiziano e Stefania che l'hanno trovata, anche Paolino che l'hanno trovata al volo. In questo pezzo qua mi pare che Alice sia con il cappellaio matto, sicuramente, che sta prendendo il tè, e poi c'è un altro che credo sia il leprotto marzolino, possibile? Si chiama così, mi pare, il leprotto marzolino, credo, vabbè. E poi c'è anche un ghiro di mezzo, vabbè. Ma d'altra parte Alice è uno di quei film che mandano durante le feste di Natale, prima o poi lo manderanno. 349 238 6666. Ho anche capito il motivo per cui è stato inventato il calendario gregoriano di cui parlavamo all'inizio, ed era che praticamente la Pasqua stava scalando troppo, e dopo un po' sarebbe arrivata, dopo qualche anno sarebbe arrivata a essere festeggiata ad agosto, e quindi Gregorio XIII diede in mano a degli studiosi i giorni dell'anno per calcolare in modo che fosse sempre tra marzo e aprile, più o meno. Insomma, il motivo del calendario è la Pasqua, questo per dire per quale motivo è nata. Grazie per tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata: Tiziano Bonini, Stefano Stefano D'Andrea, Stefania Tagliaferri e Paulino Corleoni. La storia di oggi era la storia di Anna e parlava di dimenticare o di santificare le proprie feste. Quella di domani invece è la storia di Gabriella e parla della sua fuga dal Natale. E alla fine mi ci sono ficcata in questa cosa. Ne avevo una paura tremenda, ma l'ho fatta. Semplicemente non volevo passare il Natale tra panettoni e palline colorate. E così, vai. Un click, una prenotazione a scatola chiusa e via. Partita per uno di quei viaggi dove incontri il resto del gruppo in aeroporto.